in primo piano. Ed è arrivato il momento anche della lettura dei quotidiani, la nostra rassegna stampa. Ciao, buongiorno e benvenuta a Giulia Crivelli. Buon lavoro. Buon martedì a te e a tutti gli ascoltatori. Ah, e niente, credevo mi sollecitassi ancora magari su una piccola preview sui quotidiani, ma posso dire, sono le giornate che preferisco, che sono giorni in cui ognuno ha dei titoli diversi e quindi ho un motivo in più per dirvi di comprare più di un giornale, perché ci saranno tanti stimoli. Invece so che poi Irene, come ha detto, parlerà del perdono, vediamo se troviamo anche noi degli spunti su questo argomento, su quello dell'importantissimo, quello che gli americani magari chiamano il balance tra lavoro e vita privata, che naturalmente dipende molto da che tipo di benefit ci offrono sul lavoro. Ma cominciamo quindi dal Corriere della Sera, che ha scelto di titolare su quella notizia che avete sentito anche nei GR, cioè i calcoli del Fondo Monetario Internazionale sul lavoro, calcoli fatti a 20 anni, e proprio prima di andare in onda ci chiedevamo con i nostri colleghi che senso abbia in un mondo che va così veloce fare questo tipo di calcoli. Però intanto l'FMI naturalmente ha le sue fonti, i suoi dati, e quindi ha lanciato questo allarme che ci vorranno 20 anni per recuperare appunto i livelli di occupazione pre-crisi. Moltissime le analisi su questo argomento, ma in realtà la fotonotizia del Corriere della Sera e anche quella di altri giornali, se devo dire la verità, è la copertina del New York Magazine, che è uno dei settimanali più famosi di New York, insieme al New Yorker, che però ha una natura un pochino più letteraria. Qui la copertina sono 35 donne, esattamente 35 donne sedute su sedie tutte uguali, quasi tutte vestite di nero, non tutte nello stesso modo. Queste 35 donne sono le 35 donne che dicono di essere state molestate da Bill Cosby, sapete, l'attore nero comico famoso anche in Italia per aver interpretato la serie sui Robinson, la famiglia Robinson. È un grande scandalo in America, perché adesso tutte queste donne si fanno avanti, però pare che le denunce risalissero anche a molti molti anni fa, e ora si riaprono tutta una serie di questi casi. Tantissimi ricordi di Sebastiano Vassalli, che come avete sentito anche da Alessandra Tedesco è scomparso, e però ha un libro in uscita, era candidato al Nobel, avrebbe ricevuto il campiello alla carriera in settembre, e più tardi leggeremo un brano tratto da questo libro Io parteno, perché uscirà appunto in autunno. Sebastiano Vassalli era un collaboratore del Corriere della Sera, e quindi da qui forse il privilegio di avere questo inedito. Ma vediamo il Sole 24 Ore, perché l'altra grande notizia di ieri è, anche questo l'avete sentito anche nel corso della giornata di ieri, il crollo della borsa di Shanghai, che è una delle due borse cinesi, ha perso l'8,5% in un giorno, che è veramente un calo pesante, e titola il Sole 24 Ore: questo crollo spaventa le borse europee, tanto che per esempio Piazza Affari, cioè la borsa italiana, ha perso quasi il 3%. Lo spread però, sapete, quel famoso differenziale tra gli interessi pagati sui nostri titoli di Stato e sui titoli di Stato tedeschi, i Bund, tiene a 120. Sappiamo che in passato ha raggiunto livelli ben diversi. Il commento a questa possibile bolla cinese di Fabrizio Galimberti, che i lettori del Sole 24 Ore, ma anche gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, economista, commentatore, grande divulgatore, il titolo La crescita del dragone e il mercato immaturo, perché naturalmente è questo, cioè sappiamo che la Cina, che tra l'altro sulla carta è ancora un paese comunista, ha scoperto, ha abbracciato alcune regole del capitalismo, tra cui appunto i mercati finanziari, e questo è, come sento dire spesso a Sebastiano Barisoni in Focus Economia, e questo è il capitalismo bellezza. Ci sono anche poi tutta una serie di risvolti negativi. Tantissime anche in questo caso le analisi, che poi vedremo più tardi. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche il ricordo di Sebastiano Vassalli, affidato a Giuseppe Lupo, che poi continua a pagina 16. Naturalmente ci sono anche in questo caso i dati del Fondo Monetario Internazionale, con questo allarme: il lavoro sarà ai livelli pre-crisi tra 20 anni. La Repubblica ha la stessa fotonotizia del Corriere della Sera, cioè questa copertina del New York Magazine. L'articolo è scritto da Vittorio Zucconi, storico corrispondente dagli Stati Uniti Uniti, o meglio da tanti anni corrispondente dagli Stati Uniti di Repubblica, quelle donne in copertina, il coraggio sfida le molestie. In prima pagina la Repubblica mette anche l'allarme del Fondo Monetario Internazionale, però titola Roma sul baratro, lascia anche Sel. Sapete che oggi dovrebbe essere annunciato questo rimpasto della giunta Marino, e però Sel, il partito Sel, che per esempio anche a Milano è alleato della giunta di Pisapia, era uno degli alleati della giunta nella giunta Marino, ma non è d'accordo con questo rimpasto e quindi è probabile appunto che neghi la sua partecipazione. Moltissimi anche in questo caso i commenti. Vi segnalo però anche tutto lo strascico sulla sanità, è battaglia, titola la Repubblica, mettendo tutto insieme nello stesso titolo con le notizie da Roma. Questa questione della sanità è stata un po' lanciata da Repubblica, se vogliamo, nell'intervista che è rilasciata domenica da Joram Gutkelt, il principale in questo momento consigliere economico di Renzi, che ha spiegato appunto questa urgenza dei tagli alla sanità. Ieri il ministro della salute Lorenzin ha rilasciato molte interviste anche a Repubblica dicendo vedremo come fare questi tagli. C'è stato poi l'esame in Parlamento di questi tagli, è mancato 4 volte il numero legale, questo per dire quanto evidentemente, speriamo non sia un caso, una sciatteria, però quanto evidentemente questa questione della sanità e dei tagli sia tutt'altro che chiara anche per chi eventualmente la deve votare, cioè i nostri parlamentari. La Stampa ha una fotonotizia diversa che riprende uno di questi focolai, se vogliamo, di guerra, perché la questione riguarda l'ISIS, perciò non è certo un focolaio, ma sappiamo che minaccia rappresenti lo stato il sé dicente, cioè l'autoproclamato Stato Islamico, che sappiamo non esiste in realtà, però di sé si è proclamato. Io lo sottolineo sempre perché quando si parla di Stato dovrebbe essere una cosa consolidata, invece appunto lo Stato Islamico si è autoproclamato Stato Islamico. In ogni caso sappiamo che nei giorni scorsi c'è stato questo accordo tra gli Stati Uniti e la Turchia per permettere agli Stati Uniti di utilizzare alcune basi della Turchia dalle quali lanciare i raid anti-islamisti, e però questo accordo ha degli strascichi perché è come se legittimasse la Turchia poi ad avere il pugno duro contro il PKK, il partito dei curdi, che sta dando molti problemi a Erdogan. Sappiamo che l'ascesa della forza dei curdi in Turchia è legata al mancato trionfo alle ultime elezioni sue, quindi è una questione molto complicata. E a questo dedica la fotonotizia La Stampa, anche se il titolo principale è sul crollo cinese che titola La Stampa, spaventa tutte le borse. Il commento è dell'economista Mario De Aglio, il rischio dell'effetto domino. Ma vi leggo il buongiorno di Massimo Gramellini, che è dedicato all'ennesima così spiazzante sentenza della Cassazione che ha condannato l'imprenditore che aveva deciso di non pagare le tasse perché per salvare parte dei lavoratori, lo ha condannato, e questo è appunto il buongiorno di Gramellini, che si intitola Il danno. Nel giorno in cui i musilunghi del Fondo Monetario annunciano che la crisi in Italia finirà soltanto tra 20 anni, alcuni giudici della Cassazione, appena sbarcati dal pianeta di Papalla, sentenziano che la perdita del lavoro non costituisce un danno grave alla persona, un pizzicotto tutt'al più. La Suprema Corte si pronunciava sul ricorso di un imprenditore cuneese in causa col fisco e in affanno coi soldi, che sosteneva di aver usato quelli destinati all'IVA per pagare le retribuzioni dei dipendenti. Che si tratti della verità o del fantasioso alibi di un commosso evasore non è il punto che qui ci interessa. Ci interessa che i giudici di Papalla non abbiano ritenuto di inserire lo stipendio e il posto di lavoro nella cerchia ristretta dei valori la cui perdita procura una ferita insanabile alla dignità umana. Vi interesserà sapere che in quella lista, oltre ovviamente alla vita, alla salute, alla libertà morale e sessuale, i giudici di Papalla avevano un concetto molto astratto e abusato come l'onore. Ma se vivessero sulla terra, saprebbero che nulla lede l'onore e la considerazione di se stessi quanto la mancanza o la perdita del lavoro. Un giovane disoccupato cronico si vive come un fallito. Un cinquantenne licenziato e con speranze quasi nulle di riqualificazione non ha più occhi per piangere, neanche per guardare in faccia i propri figli. Certi giudici meriterebbero di perdere il posto per manifesta disumanità. In questo caso effettivamente non si tratterebbe di un danno grave. E questo era il buongiorno di Massimo Gramellini. Il Messaggero naturalmente si concentra sulla questione di Roma, titolando Renzi, Roma non merita questo. Perché? Perché Matteo Renzi ha scritto una lettera aperta al Messaggero dicendo siamo pronti ad aiutare la capitale. Sapete che purtroppo tra le ipotesi, dico purtroppo perché è il terzo aiuto in 3 anni, straordinario, tra le ipotesi per sanare le emergenze di Roma c'è un ulteriore super stanziamento da parte del governo centrale, si parla di almeno 200 milioni di euro. E vi leggo allora l'ultima parte di questa lettera di Renzi, che comincia in prima pagina sul Messaggero e continua a pagina 3. Noi ci siamo pronti sul Giubileo, siamo pronti sulle Olimpiadi, siamo pronti sulle infrastrutture, siamo pronti sulle periferie, siamo pronti sulle aziende partecipate, leggo letteralmente, una specie di cerca di ipnotizzarci Renzi quasi, purché dal comune arrivino proposte e non polemiche a distanza, siamo disponibili a verificare i progetti che la città vorrà proporci, siamo pronti a studiare tutte le soluzioni praticabili per rilanciare Roma, vetrina e biglietto da visita per il paese, ma il sindaco dia un segnale, punto esclamativo, e si interrompono una volta per tutte le manovre di piccolo cabotaggio figlie di una cultura politica vecchio stampo che dovrebbe essere superata, si torni a parlare della gente con la gente, Roma se lo merita, i suoi abitanti così pacificamente invasi dalla gloria, dalla bellezza del passato, si meritano un futuro all'altezza dei propri sogni più belli. E a proposito di Ignazio Marino, e per passare da questo tono un po' troppo, così, come posso dire, aulico e idealistico, a un tono invece decisamente molto più ironico e graffiante, ma forse di questo c'è bisogno in questo momento, vi segnalo l'articolo di Salvatore Merlo sulla prima pagina del Foglio, Come salvarsi da Ignazio Marino. Anche qui vi leggo l'ultima parte, ma è veramente divertente. Ancora adesso, con mezzo PD che lo vorrebbe cacciare, Marino va a naso alto, mento in fuori, occhi socchiusi, esponendosi con ideologica miopia ai beffardi precipizi e alle crudeli voragini che si spalancano lungo la strada della realtà. Ed ecco subito l'ecologia, l'inquinamento, il pasticcio dell'urbanistica, lo stracotto dei giovani, lo stufato della pedonalizzazione, dell'acqua pubblica, del Giubileo, della ripartenza, il nuovo inizio. È onesto, dicono tutti, ma l'appello all'onestà annoia, i richiami alla malfa che si portava l'aria da casa per non consumare quella del ministero, a Turati che camminava su un piede solo per non logorare il suolo pubblico, sono, come tutte le retoriche, sfasati e controproducenti. Un disonesto lo si può mettere in galera, ma di un calamitoso eroe della società civile come ci si libera? E ricordiamo che tra l'altro non è, nonostante quello che dica Renzi oggi nella sua lettera al Messaggero, non è chiarissima la posizione né del PD né dello stesso Renzi, che oltre a essere premier è anche segretario del PD, su appunto se Marino vada cacciato o no. Dalla prima pagina del Foglio vi segnalo anche anche in questo caso è una lettera di Andrea Mangoni, che è l'ex amministratore delegato di Sorgenia. È una lettera che Mangoni aveva mandato a tutti i quotidiani, a maggiori quotidiani italiani, ma che solo il Foglio ha deciso di pubblicare. Racconta dal suo punto di vista le accuse che gli sono state mosse e come sono state trattate queste accuse, sono state prese, riprese, commentate dai giornali. Il titolo: vi spiego come funziona il circo mediatico giudiziario, io che l'ho provato sulla mia pelle. Da leggere, è difficile farsi un'opinione se non si è dei tecnici del diritto, se non si ha voglia di esaminare tante, tante, tante pagine di carte processuali, però sicuramente questa questione infangare, se vogliamo comunque intaccare la reputazione di una persona a mezzo stampa, è attualissima, lo sappiamo, e come vedremo ci sono sviluppi anche sul caso Crocetta. Ci lasciamo un attimo e ci ritroviamo tra un paio di minuti. In primo piano. Ancora buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei quotidiani, siamo arrivati all'Unità, che oggi titola sulla questione di cui abbiamo parlato molto e di cui sicuramente parleremo ancora. È la prima voce del bilancio dello Stato italiano, ma anche di quello di tantissime altre nazioni, la sanità naturalmente. Il titolo: così si tagliano gli sprechi. Si cerca di fare un pochino di chiarezza su tutto quello che è stato detto negli ultimi giorni, la famosa intervista, l'intervista di Yoram Gutkel da Repubblica, in cui venivano annunciati questi tagli, la discussione di ieri in Parlamento, il parere del ministro Lorenzin alla salute. L'Unità dedica a questa questione 2 pagine, la 2 e la 3, con una serie di approfondimenti, anche perché sapete che uno dei tanti problemi è come saranno questi tagli, se lineari o molto mirati e chirurgici, e ci sono molte opinioni su dove si può ancora tagliare, il taglio dei ricoveri, gli esami inutili, cose che abbiamo già sentito, che vorremmo veramente vedere messe in pratica e di cui sicuramente si discuterà molto. Libero titola sulla Cina, sul crollo delle borse cinesi che abbiamo visto anche sugli altri giornali, la Cina crolla, l'Unione Europea quasi, ecco dove mettere i soldi, quindi dei consigli che vedremo anche sul Sole 24 Ore, come cercare appunto per chi ha degli investimenti in borsa o comunque degli investimenti finanziari, che cosa fare in questo momento. La fotonotizia di Libero è dedicata alla vicenda a cui abbiamo accennato prima, cioè la famosa intercettazione fantasma tra il governatore della Sicilia Crocetta e il suo medico personale Tutino, che in questo momento è agli arresti per una serie di accusato di una serie di reati gravissimi dal punto di vista amministrativo, cioè peculato, corruzione e altre piacevolezze. In questa intercettazione, lo sapete, Tutino avrebbe detto: Lucia Borsellino è assessore alla sanità che si era dimessa da pochi giorni, meriterebbe di fare la fine di suo padre, il magistrato Paolo Borsellino. Crocetta era accusato di non aver reagito e per questo si era autosospeso, prima di dimostrare che queste intercettazioni che ho appena chiamato fantasma probabilmente lo sono per davvero. E infatti Libero mette in prima pagina la notizia che i due giornalisti che le hanno scritto l'articolo sull'Espresso due venerdì fa sono adesso indagati. Vi leggo un pezzo di questo articolo, perché per un giornalista è veramente una bruttissima vicenda questa, perché se le cose sono andate come pare siano andate, cioè che queste intercettazioni sono fantasma, è stato la reputazione di Crocetta, che può essere simpatico o antipatico, può essere messo sotto il microscopio per la sua gestione della Sicilia, ma questo non ha niente a che vedere con il trattamento che gli è stato riservato appunto dall'Espresso e poi in generale dalla stampa nei giorni successivi. E quindi il pezzo di Giacomo Madori a pagina 10: alla fine la Procura della Repubblica di Palermo, dopo essere stata costretta a plurime smentite dalla coriacea resistenza del direttore dell'Espresso Luigi Vicinanza, ha deciso di chiudere lo stucchevole siparietto e ha iscritto sul registro degli indagati due autori dell'articolo sull'ormai fantomatica telefonata tra il governatore Crocetta e il primario Matteo Tutino, quello dove quest'ultimo avrebbe sussurrato al primo, silente e quindi colpevole: Lucia Borsellino va fatta fuori come il padre. L'accusa per Piero Messina e Maurizio Zoppi, i due giornalisti dell'Espresso, è quella prevista dall'articolo 656 del Codice Penale, pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Il procuratore di Palermo, Francesco Lovoi, ha confermato a Libero che Messina è indagato pure per calunnia. Infatti avrebbe addossato la responsabilità del reato alla sua presunta fonte, ma questi, convocato d'urgenza in procura, lo ha smentito. L'ipotetica gola profonda, ha spiegato Lovoi, è stata individuata con accertamenti diversi rispetto ai tabulati telefonici. La stessa era stata comunque resa identificabile da un corsivo dell'Espresso, dove erano indicate data e ora della telefonata in cui l'investigatore avrebbe scandito parola per parola la frase di Tutino e il silenzio di Crocetta inciso nei nastri. Messina e Zoppi sono stati già ascoltati in procura e, aggiungo io, chicca finale, assistiti dall'avvocato Fabio Bognanni, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. E ditemi voi, appunto, se non è una vicenda triste proprio anche per una questione di etica giornalistica. Vedremo come andrà a finire, non voglio anch'io affrettare conclusioni, però purtroppo queste intercettazioni sempre di più sembra un'intercettazione fantasma. E su questa notizia titola proprio il giornale: falsa notizia e calunnia, indagati i giornalisti dell'Espresso. Vittorio Feltri scrive una sorta di lettera aperta a Marino invitandolo a dimettersi. Il suo unico merito saranno le dimissioni, questo è il titolo dell'articolo di Vittorio Feltri, ma continua, diventiamo un pochino più leggeri subito, forse sono stata un po' troppo pesante per l'appunto, e continua la serie appena iniziata, in realtà è iniziata domenica, delle lettere d'amore, questa iniziativa del giornale per l'estate, che ogni giorno pubblica una lettera d'amore magari non famosa, anzi spesso inedita o poco conosciuta, però di un personaggio famoso. E oggi è Eleonora Duse che scrive al Vate e dice, il titolo che sceglie l'Espresso è: ti vedo con lei, mi accanisco sulla mia ferita, Gabri, che naturalmente sta per Gabriele D'Annunzio, l'appello di Eleonora Duse, la grande attrice che era gelosa di tutte le conquiste di D'Annunzio. Il commento, perché c'è sempre qualcuno che commenta la lettera, ieri era Belen Rodriguez che commentava una lettera del poeta John Keats, e oggi è Giordano Bruno Guerri: gelosa e spezzata, devo dirti addio. L'Avvenire sceglie di approfondire l'allarme lanciato dal Fondo Monetario Internazionale, il titolo della prima pagina è Generazione Perduta. però c'è anche un accenno alla borsa cinese crollata e poi una forte enfasi, anche se la notizia la trovate anche sugli altri giornali, sulla questione dell'ICI e sull'esenzione eventuale che dovrebbero avere le scuole cattoliche e che invece la Cassazione con una sentenza avrebbe messo in dubbio. ICI alle paritarie, non c'è obbligo di pagamento, perché si è riaperta anche la questione non tanto solo delle scuole cattoliche ma anche di quelle cosiddette paritarie, e quindi continua il dibattito. Sapete che il governo ha promesso un tavolo su questa questione. Il Manifesto, una fotonotizia, sono due medici che trasportano una barella in corsia e il titolo è un po' un gioco di parole, perché è privati della salute. Una delle obiezioni a queste prime linee guida sui tagli alla sanità per risparmiare, per renderla più efficiente, è che se veramente vengono tagliati servizi o possibilità di accedere a alcuni servizi pubblici, bisognerà ricorrere a quelli privati. E allora pagine 2 3, il Manifesto approfondisce la questione. Regioni in rivolta contro il taglio, 10 miliardi appunto è la cifra buttata lì da Joram Gutkeld, che poi adesso sarebbe già scesa a 7 miliardi, comunque vedremo. I cittadini per le cure dovranno comprarsi un'assicurazione privata, questo è un po' l'allarme. Vi segnalo l'intervento di Ivan Cavicchi, che è un medico, ha scritto molti libri sulle questioni sanitarie, cercando sia di dare il suo punto di vista tecnico ma anche di essere molto propositivo. Il titolo è abbastanza chiaro: è ora di dire basta a questo scempio. C'è un po', secondo Cavicchi, il rischio appunto che l'impianto cardine che rende il nostro sistema sanitario nazionale, non mi stancherò mai di ripeterlo, uno dei migliori al mondo, l'impianto che è di cure pubbliche per tutti, soprattutto quando appunto il reddito certifica che si ha diritto ad alcune cure anche molto care, che magari invece possono essere pagate da chi se le può permettere. Ecco, questo scardinare la parte pubblica del servizio sanitario è pericoloso. Il Fatto Quotidiano invece, come ieri, continua a concentrarsi sul disegno di legge che proibirebbe la divulgazione delle intercettazioni o addirittura l'uso delle intercettazioni da parte dei magistrati che indagano o degli inquirenti, e questa volta oggi l'intervista è al procuratore generale di Palermo, Lo Bianco, che dice: il bavaglio istiga all'omertà. Sulla sanità c'è un richiamo in prima pagina sul Fatto Quotidiano, una cura da troica, così viene definita. Vi segnalo poi la Gazzetta dello Sport, perché ieri, sapete, sono stati diffusi i calendari della Serie A e la Gazzetta dello Sport parla di una partenza razzo, perché ci sono subito gli scontri tra le B. E poi vi segnalo, per chi ama queste cose, che la Gazzetta dello Sport ha fatto uno studio sui lanci lunghi di Pirlo, del grande giocatore Pirlo, ne ha fatti 3.189, in 10 anni nessuno come lui. Ma passiamo un po' agli articoli nelle pagine interne. Vi dicevo gli approfondimenti del Sole 24 Ore sulla questione cinese. La cronaca della giornata di ieri è a cura di Vito Lops. Shanghai sprofonda, l'abbiamo detto, questo forte ribasso, e poi c'è anche un'analisi di tutti i titoli che a Piazza Affari hanno trascinato l'indice al ribasso, perdendo anche più di quel 2,97 che poi è stata la media di ribasso, il ribasso medio con cui ha chiuso Piazza Affari. Sono, guarda caso, appunto i titoli di aziende che più potrebbero soffrire di una crisi reale oltre che finanziaria in Cina, quindi per esempio i titoli del lusso, perché sapete che le aziende del lusso vendono moltissimo in Cina, negli ultimi anni sono cresciute molto grazie al traino dei consumi cinesi, e quindi appunto Salvatore Ferragamo e Moncler per esempio, che hanno perso più del 4%, ma anche i titoli automobilistici come Fiat Chrysler, che ha perso il 6,94, e c'è appunto questo schema. Il commento di Maximilian Cellino: il mercato non ha ancora messo a fuoco il rischio rosso. Vi segnalo anche un articolo di Marigia Mangano che approfondisce una trimestrale / semestrale arrivata ieri, che è quella di Luxottica. Sapete che è tempo di trimestrali, di conti, e Luxottica, per l'ennesima volta, che Luxottica è, pensate, leader, è un'azienda italiana, ma è leader mondiale nella produzione e distribuzione di occhiali di fascia media e medio-alta, e nel solo trimestre ricavi a 2,45 miliardi, utile per 295 milioni, e quindi con una crescita del 28%. E tra l'altro quello che poi interessa agli analisti, alle borse, ai mercati, confermato questo questo l'outlook per il 2015, cioè ottimismo per tutto il per tutto l'anno. Dalle pagine di norme e tributi, ieri abbiamo parlato dei consigli e anche sabato di tutto quello che può servire a chi va in vacanza, quindi anche i consigli per esempio sulle assicurazioni quando si parte in vacanza. Oggi c'è un approfondimento invece che si intitola tutte le strategie per evitare i danni, ma per quello che riguarda la gestione del condominio quando non siamo a casa, perché appunto siamo in vacanza. L'amministratore deve risarcire in caso di omissione ai suoi doveri quando ci sono, e noi non siamo, appunto siamo via, non siamo a casa, perdite d'acqua, allarmi a vuoto, lavori urgenti che possono essere affrontati facilmente. Abbiamo detto tanto durante i giorni della crisi che la crisi greca doveva servire a riaprire il dibattito sull'Europa, e allora Danilo Taino da Berlino oggi sul Corriere della Sera raccoglie un po' i pareri di 8 saggi cosiddetti, tra cui Schäuble, presidente Hollande, Piercarlo Padoan, il nostro ministro dell'economia, Mario Draghi, presidente della BCE, Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, e Jean-Claude Juncker, naturalmente ex premier del Lussemburgo, attuale presidente della Commissione. E i temi, secondo Taino e secondo questi pareri che ha raccolto, i temi più urgenti sono il bilancio comune e un'unione politica. Sappiamo che il Parlamento, l'unione politica in realtà dovrebbe essere decretata da un Parlamento comune. Il Parlamento europeo esiste, ha persino 2 sedi molto dispendiose, ma sappiamo che è di fatto un Parlamento che non legifera, o meglio legifera, ma poi quelle leggi non sono quelle che regolano la vita dell'Unione europea, perché quelle vengono decise dalla Commissione europea. Sono sostanzialmente le direttive. Un aggiornamento sui 4 connazionali, sui 4 italiani rapiti in Libia, con una intervista di Lorenzo Cremonesi a pagina 15 del Corriere della Sera al primo ministro di Tripoli, che dice: difficili le ricerche dei 4 rapiti, Roma ci riconosca come governo, sapete che c'è questo problema che in Libia esistono 2 governi, e vi aiuteremo. L'Italia non lavora con noi ma solo con Tobruk, dove ci sarebbe l'altro governo. Sappiamo quanto complicato sia in questo momento trattare con la Libia, anche se tutti dicono che è proprio stringere degli accordi con la Libia che aiuta su tante questioni, a parte questa gravissima dei 4 italiani rapiti, ma naturalmente tutta la questione degli scafisti che partono dalle coste libiche. Un approfondimento divertente sulla maturità ormai è passata, ci sono stati tutti quelli che hanno avuto 100 lode, e ora sì, magari invece chi quest'anno magari si prepara all'ultimo anno di scuola e magari studia come un matto durante l'estate, oppure chi segue la filosofia di non fare troppi compiti e perché magari ha la fortuna di insegnanti che non li hanno assegnati, ma insomma il tema è: quante ore studia il primo della classe? E così Leonard Berberi ha intervistato una cosiddetta secchiona e ha scoperto insomma che quali sono i suoi segreti, sostanzialmente metodo e curiosità. Vi segnalo sulla questione della sanità, prima di lasciarci un attimo per la pausa sul traffico, dalla Repubblica un intervento del Sindacato Nazionale dei Radiologi, che è guidato dal dottor Corrado Bibbolino, che spiega, per esempio, abbiamo parlato di esami inutili e di come forse effettivamente si può ancora tagliare e rendere più efficiente tante parti del sistema sanitario nazionale. Ecco, si scopre che in Italia abbiamo un record delle risonanze magnetiche, che sapete sono esami, per chiunque li abbia fatti privatamente lo sa, costosissimi, e sono costosissime anche le macchine che li fanno. Noi abbiamo un record mondiale, sarebbero inutile il 40% delle risonanze prescritte e a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Una pausa per il traffico, ci risentiamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon martedì da Giulia Crivelli per l'ultima parte di questa rassegna. Vi segnalo dalla Repubblica, ieri l'avevo vista ma non avevo avuto tempo di darvi la notizia, ma forse molti di voi l'hanno letta sui giornali, del salvataggio di un cane che era rimasto chiuso fuori su un balcone ed è stato salvato dai vigili del fuoco dopo 3 giorni dietro segnalazione di un vicino. E oggi Laura Snaghi su Repubblica ci racconta la situazione a Milano. Non abbiamo ancora sentito i dati sugli abbandoni soprattutto dei cani ma anche dei gatti e di altri animali durante l'estate, e probabilmente li sentiremo, perché non, soprattutto in un'estate così calda, io sono pessimista in generale, ma non credo che non abbiamo ancora sentito i dati, perché quest'anno la situazione è nettamente migliorata. Purtroppo in estate gli animali vengono crudelmente abbandonati, e non solo in Italia tra l'altro. Comunque Laura Snaghi ci spiega che a Milano c'è questa task force che serve proprio a intervenire nei casi più gravi, e in 10 mesi sono stati fatti 100 interventi. Ci racconta anche questo, dopo appunto quello del meticcio lasciato 3 giorni sul balcone, e l'altro giorno invece è morto un cane che si è lanciato dalla finestra per la disperazione, perché anche lui era stato lasciato solo. La crudeltà, insomma, degli esseri umani verso i cani, ma verso tanti altri animali, oltre che naturalmente verso altri esseri umani. E purtroppo continua a essere cronaca di ogni giorno. E sulla Stampa una storia raccontata da Paolo Levi da Parigi, che ha raccolto la confessione di un pentito dell'ISIS, di questi ragazzi che lasciano, magari sono anche nati e cresciuti in Europa, ma cresciuti magari nell'Islam, e a un certo punto lasciano per andare a combattere con l'IS. E questo Paolo Levi appunto ha intervistato questo ragazzo francese: i miei sei mesi a Raqqa da poliziotto dello Stato Islamico, la confessione di un pentito tornato in Francia, solo atrocità, non è Islam. Vi segnalo sempre dalla Stampa un intervento di Armando Spataro, procuratore di Torino, che interviene sulla questione, lo sappiamo, del DDL sulla riforma delle intercettazioni. Secondo lui ci sarebbero le norme in esame, sono inutili, le regole ci sono già, basterebbe applicarle. Un'affermazione che sentiamo spessissimo in Italia, cioè molto spesso vengono fatte nuove leggi, sapete che ne abbiamo circa 100.000 in Italia, 10 volte quelle che per esempio ci sono in Germania, per dire che a volte produciamo tantissime leggi e poi produciamo anche sovrapposizioni e difficoltà di interpretazione, quando in realtà magari quelle che ci sono andrebbero già bene, andrebbero soltanto applicate meglio. Vi segnalo dal Messaggero un'altra questione che forse i giornali dovrebbero obbligarsi a tenere aperte su alcune finestre, come dire, ricordate quel fatto di cui abbiamo parlato tanto e poi di cui non ci siamo più occupati? Ecco, l'aggiornamento mensile su quella questione che non è risolta. Parlo della ricostruzione dell'Aquila dopo il terremoto. La mafia all'Aquila, mazzette e truffe per la ricostruzione. Pensate, a distanza di tanti anni siamo appunto ancora a discutere di come ricostruire la città, che resta di fatto una città fantasma, e soprattutto a cercare di capire quanta corruzione, quante mazzette siano passate e stiano ancora passando per quella ricostruzione. Dal Messaggero anche un approfondimento con un po' diverso, un po' più ampio da quello che fanno gli altri giornali, sulla morte di Bobby Christina Brown, la figlia di Whitney Houston, che dopo 7 mesi di coma farmacologico è morta, e il Messaggero racconta un po' la maledizione dei figli d'arte, parlando anche di Peaches Geldof, la figlia di Bob Geldof, che è morta per un overdose di eroina, e poi sperando che invece per esempio a Frances Cobain, che è la figlia di Kurt Cobain, morto suicida nel 1994, per esempio, abbia magari un destino migliore. Ma passiamo un attimo agli approfondimenti così culturali, perché abbiamo ancora pochi minuti e ci tenevo davvero a parlare un pochino di Sebastiano Vassalli, e perché, come vi dicevo, il Corriere, tutti i giornali hanno almeno 2 pagine su Sebastiano Vassalli, questo grandissimo scrittore morto, purtroppo tutti dicono, per un male incurabile. Dobbiamo tutti supporre che si tratti di tumore, e a me questa definizione dà sempre molto fastidio. Credo che i giornali italiani siano, rispetto a quelli anglosassoni, molto veramente ormai abituati a usarla, perché in realtà alcuni tumori sono incurabili, è la verità, ed è il caso di quello che ha colpito Sebastiano Vassalli, ma tanti altri non lo sono, quindi perché chiamare il tumore sempre male incurabile? Comunque, troverete questa definizione sulla maggior parte dei giornali. Ne parlano tantissimo di Sebastiano Vassalli, soprattutto i critici letterari dei vari giornali, lo ricordano gli amici, ma il Corriere, forse anche perché appunto Sebastiano Vassalli collaborava col Corriere, pubblica una parte, un'anticipazione di quello che è il suo, sarà una pubblicazione postuma, perché uscirà in settembre probabilmente, il libro che si chiama Io Partenope. E allora vi leggo alcune righe, il titolo è: ho raccontato l'Italia, il mio paese, ora mi congedo. E scrive Sebastiano Vassalli: l'Italia è un patchwork di popoli e di culture, non viene da una storia comune, non ha una ragione unica, o se ce l'ha, e per forza di cose prima o poi dovrà averla, è un insieme di tante ragioni. Sono partito dal Ducato di Milano e dalla Lombardia del vescovo Bascapè, dalla Strega, il riferimento naturalmente a uno dei libri più famosi di Sebastiano Vassalli, La Chimera, per parlare di una modernità che stentava a nascere, tenuta a freno da una religione che, pur considerandosi universale, era una parte cospicua della storia di questo paese. E vi leggo le ultimissime righe di quello che è appunto un'anticipazione del libro Io Partenope. L'Italia, l'ho già detto, è un insieme di storie grandi e meno grandi, Ma già dando un'occhiata a questo che ho passato in rassegna, ne viene fuori l'immagine di un paese che è, nel bene e nel male, quello dove ci è toccato nascere, dove tanti ancora dovranno vivere. Ho raccontato l'Italia. E questo appunto Sebastiano Vassalli. Trovate questo brano e poi il ricordo di Paolo Di Stefano alle pagine 38 e 39 della Repubblica, del Corriere della Sera, scusatemi. Invece la R2, che è la parte di supplemento culturale della Repubblica durante la settimana, ieri abbiamo visto quello scenario un po' apocalittico di Pechino, che potrebbe avere tra una decina d'anni 130 milioni di abitanti. Oggi invece parliamo del 2050 e Maurizio Ricci ci racconta che tra 35 anni i campi di battaglia, in realtà si spererebbe che ce ne fossero sempre di meno, saranno popolati da robot che non solo combatteranno ma guideranno le offensive, e poi da umani aumentati. È uno scenario previsto dal Pentagono, che però, scrive e racconta Maurizio Ricci, che ha dato un'occhiata appunto a queste previsioni del Pentagono, sorvola sul rischio hacker. Vi segnalo anche dalla Repubblica, due pagine di Repubblica su Vassalli, corredate da un splendido ritratto di Riccardo Mannelli. Qui il titolo dell'articolo è Il profeta laico di un'Italia senza provvidenza. E sempre per leggere, così un po' fare un po' di pensiero laterale, dalla Stampa invece un bellissimo racconto di Marco Belpoliti sulla storia delle api. Pungente chiacchierona, non dimostra 70 milioni di anni. Quegli animali, insomma, che c'erano prima di noi e forse ci saranno anche dopo di noi, noi intesi come esseri umani. È molto sociale, possiede un linguaggio per trasmettere ai propri informazioni essenziali sulle sorgenti del cibo e non solo. La regina dell'alveare naturalmente ha un cervello più grande del fuco, scusatemi se rido, che è naturalmente l'ape, che è destinato invece molto utile per la riproduzione, però un cervello più piccolo della regina, che invece deve organizzare tutto il resto della vita delle api. L'ultimissima segnalazione che riesco a farvi prima anche di dare la parola a Irene è dal Foglio, che ha una bellissima pagina dedicata a quello che viene chiamato il tempo dei nonni e il rapporto che si può instaurare, ce lo racconta Marianna Rizzini, tra appunto nonni e nipoti, quel lessico segreto che solo un nipote può intuire, che i genitori non capiranno mai. Le ore passate con loro, con i nonni, scorrono più lente, diverse, e resteranno per sempre. In estate appunto spesso i nonni passano più tempo con i nipoti, e forse è davvero un privilegio per chi lo può avere. Ma eccoci Irene, che sei pronta e è veramente toccante, è un dato sociale tra l'altro che incide anche economicamente sull'organizzazione della vita e del lavoro. Voglio dirti, Giulia Crivelli, che hai fatto benissimo a sottolineare il cattivo vizio di chiamare il cancro male incurabile. Ogni volta che lo facciamo noi giornalisti, migliaia di persone che ci leggono e ci stanno ascoltando sobbalzano e si sentono condannate. Ormai sappiamo, non è così, dipende spesso dalla stadiazione, da dove, in che momento della stadiazione la diagnosi avviene, ed è giusto dare il giusto nome a una malattia che ogni famiglia conosce bene, ma che non è sempre un verdetto. Certo, a volte veramente purtroppo ti porta via in pochi mesi, ma e lo si può dire, un cancro per esempio fulminante come quello al pancreas lo ha portato via in 2 mesi, ma non è un male, ma non è tumore uguale male incurabile, scusami, ma è proprio un'equazione che hai fatto bene, un cliché che hai fatto bene, come dire, a smontare. Grazie a Giulia Crivelli, naturalmente la ritroveremo anche domani mattina per la rassegna stampa. Noi continuiamo con Spunti di Vista perché abbiamo moltissimi temi da affrontare anche stamattina. Partiremo dal perdono, da quel killer che le vittime osano chiamare signore, l'hanno chiamato proprio così, stiamo parlando del assassino confesso, tra l'altro, e che ha confessato il proprio crimine della tabaccaia di Asti, come è stato ribattezzato sui giornali. Andremo a fondo per capire anche lo stupore di questa famiglia eccezionale della vittima, che ha detto: aiuteremo la figlia malata dell'uomo che ha ucciso la nostra. Ne parleremo tra pochissimo dopo il giornale radio. Affronteremo anche la tematica del lavoro, proprio così, lavoratori più felici vuol dire anche organizzazioni più sane, posti di lavoro incentivanti, una soddisfazione che poi si traduce anche fuori dal lavoro in maggiore serenità, felicità, armonia nelle famiglie, visto che ci sono dei dati preoccupanti sull'incremento di disagi e malattie psichiatriche legate allo stress. Ora oggi noi vogliamo chiedervi, a parità di salario, cos'è che vi incentiverebbe, a prescindere dall'occupazione che avete, a rimanere in un'azienda piuttosto che in quella concorrente, per esempio. Quali sono quei benefit, quegli incentivi non economici che voi valutereste molto importanti per le vostre scelte? Ditecelo al 349-238-6666, quello che vi ho dato è il numero degli SMS, oppure chiamateci dopo le 8:30 all'800 24 0024.